polveri. Go Howard Paul Berry. Radio Vomma. Buonasera, bentornati e bentornate su Fuoco alle Polveri. Vi do il benvenuto, sono Bricobaldo, qui accanto a me JP. Ciao cari, ciao abbiamo... a tutti. Buonasera e benvenuti. Buonasera, stiamo benvenuti. Sul regista, maestro. Salve. E poi qui accanto abbiamo Glande Lago. Glande Lago. Che... Tutto a posto, Glande Lago? Tutto a posto. Dice tutto a posto. Molto bene. Glande Lago ha detto tutto a posto. Bene, puntata numero... Puntata numero 65. 65 come? 65 come... come dicelo te, caro regista? Come tu come manca. Come tu come manca per l'ennesima volta. E l'ennesima volta che facciamo questa figura di merda. Manca sempre, lavora troppo. Ci chiediamo, il 65, ma il 65 non... E solo lui lo sa e si porta questo segreto nel vero, suo luogo di lavoro. Senza Tuco siamo perduti. Vabbè. Senza Tuco sei perduto. Comunque noi andiamo avanti lo stesso, perlomeno ci proviamo. Naturalmente. Con cosa andiamo avanti? Andiamo avanti, oggi parleremo per due ore del Festival di Letteratura Sociale Prossimo Venturo. Che noia. No dai, ma che noia, bellissimo. Due ore così a diritto e basta. Però con le musichette. Sì, qualcosina. Con qualche musichetta. No, in verità ci saranno anche altre cose. No, perché abbiamo anche altri contenuti. Non vi faremo due mancare mai niente. Mai niente, ci saranno delle piccoli, come si può dire, inserimenti all'interno del festival per parlare di altre cose che riguardano noi tutti, i vicini, la città, il diritto alla città e quant'altro. Parleremo anche di musica, ci faremo spezzare il cuore da Nick, come si chiamava la stagione scorsa. Chi lo può sapere? Chi lo può sapere, non bene. Si è capito. Nino. Il nostro Nino, ex Nick. Sì. E Nino. Poi... E poi basta, praticamente poi andiamo a dormire. Forse biciclette. Ah, forse anche qualche bicicletta che passa per questa città. Sì. Qualche. Qualche, sì. Non se ne parlava mai. Mai. Ci sta. Si va subito. Direi che se volete già spengere, visto il programma, sappiate che dal 17 al 20, quindi da giovedì a domenica, ci sarà questo Festival della Letteratura Sociale alla Polveriera Spazio Comune. Così ora l'ho detto, potete spengere. E ci si vede il 17 giovedì. Io l'ho fatto. E Radio Wombat manderà praticamente tutto in diretta. Queste erano le informazioni principali, quelle fondamentali per poter passare il lunedì tranquillo. Poi se volete stare qua, noi mandiamo una canzone. Wombat. La canzone dei nostri amici Handlogic. Che salutiamo, ciao amici. Ciao amici. Mindlogs, sentito. Now's the time for our minds to be present. Reminds us to be present. Watch, observe the free flow of your mind blasts back and forth. I see signs on our mind lines. try to breathe. Only breathing can reach your higher self, but I pant for a seizure, for the seizure, for the seizure. Now's the time. Sono tornati i vostri eroi, i nostri eroi. Ci sono piaciuti nel Logic e quindi abbiamo deciso di mandarveli. Gruppo fiorentino, dai, sosteniamoli un po'. Comunque, dobbiamo iniziare a fare questa grande immersione nel festival. Intanto abbiamo il programma sotto mano, speriamo 12 programmi sotto mano, speriamo che possiate averlo anche voi a breve, perché è interessantissimo. Comunque basta andare su internet e scrivere Festival di Letteratura Sociale terza edizione, vero, verissimo, e lo trovate, c'è sul blog della Polveriera, c'è sul blog di Radio Wombat, c'è su Facebook, un po' ovunque, insomma, vedete lì, Una grande nave che affonda, questa è l'immagine che presenta il festival, il terzo festival di nuovo in Polveriera dal 17 al 20 maggio. Oh, ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Domani. Vabbè. Iniziamo a chiacchierare un po' cosa succede giovedì e venerdì, Poi ci interrompiamo perché anche noi dobbiamo respirare. Vero. Vai. Allora, il festival si apre giovedì 17 alle 17, ovviamente. La prima presentazione sarà in realtà un tavolo che partirà dalla presentazione di un libro che si chiama L'Impero del Sogno di Vanni Santoni, che è uscito l'anno scorso per la terza. Insieme a Vanni Santoni a questo tavolo parteciperanno Silvia Costantino, Francesco Disa ed Edoardo Rialti, e il tema del tavolo sarà immaginari sovversivi, ossia come all'interno del fantasy, della fantascienza e della fantasia in generale si annidano immaginari sovversivi, quindi tutta la ribellione, tutto ciò che compone appunto questo immaginario sovversivo. Dove sta all'interno della letteratura fantasy è molto interessante, soprattutto perché quelli che sono a questo tavolo sono dei super esperti di questa roba. L'anno scorso abbiamo ascoltato Edoardo Rialti fare un... e anche Vanni Santoni, anche gli altri, ma Edoardo Rialti soprattutto mi ha colpì l'anno scorso per la capacità anche di far appassionare a me un genere che non mi tange più di tanto poi alla fine. Insomma, quindi mi era piaciuto particolarmente. Vado avanti? Vai, andiamo avanti, okay. Alle 19, sì, questo tavolo... volevo dire una cosa. Ci sono sia tavoli che presentazioni vere e proprie dei libri più classiche. Salve. Quindi ci sono queste due forme, diciamo, e radiopresentazione, queste tre forme. Quindi tavoli aperti dove ci sono dei dibattiti su dei temi a partire dalla presentazione di alcuni libri, presentazioni secche di libri classiche e radioconversazioni. Proprio a Radio Wombat ci saranno le presentazioni via radio. Quindi si va, se la prima è un tavolo, a partire da una presentazione di un libro, sì. La seconda alle ore 19 è una presentazione vera e propria. Vera e propria. L'amore. In realtà sono praticamente due presentazioni che sono state accorpate e che sono, una è L'amore a 20 anni di Giorgio Biferali e l'altro è Dimentica di respirare dell'autrice Karen De Martin Pinter. Sono due nuovissime edizioni. Due libri usciti proprio negli ultimi mesi per Tounoué Edizione, per la narrativa di Tounoué. È la narrativa e ci piglia bene anche la narrativa, non ci sono solo i saggi, non ci sono ma ci sono anche dei romanzi veri e propri, e siamo gasati di ascoltare. Anche lì Vanni Santoni presenzerà al tavolo introducendo e chiacchierando con l'autore e l'autrice. In quanto direttore della collana mi suggeriscono alle mie spalle. Vero. Abbiamo anche degli uccellacci che si arrivano sulle nostre spalle. Che arrivano a un certo punto e ci suggeriscono. Però ci suggeriscono giusto, mica male. Sentiamole, sentiteli. Avete sentito? Sono buoni questi uccellacci. All'apparenza sembrano un po' oscuri, un po' aggressivi, ma in verità poi... Ottimi consigli. Vado ottimo, io, dai, vai, proseguo vai, io, bello. Perché questa qua la so. Alle ore 20, cena. Di autofinanziamento del festival. Questa non ero preparata. Questo sei stato bravo. Tra l'altro diciamo appunto che ogni sera delle quattro giornate ci sarà una cena di autofinanziamento. Non abbiamo più palle idea di quale sarà il menù, ma sarà tutto sempre buono. Appunto per finanziare il festival, che non riceve nessuna sovvenzione da nessuna parte. Fosse mai. E si autofinanza grazie anche all'introito. E si autogestisce. Si autogestisce completamente. Bene, poi alle 20.30 dicevamo Radio Conversazione, Confederalismo Democratico e Situazione Siriana a partire dalla prossima rivoluzione dalle Assemblee Popolari alla Democrazia Diretta di BFS Edizioni del 2017. Ti ricordi quando nel programma abbiamo scritto, hai scritto accanto alle radiopresentazioni, hai scritto dopo? Vero, giusto, le radiopresentazioni dopo. No, ormai lo facciamo tutto insieme, va bene. Allora, durante la cena praticamente, per non stare a fare la presentazione dura, ci sarà un angolo, un corner della radio, Angolo Wombat, dove noi a questo punto veramente intervisteremo Noi non mangeremo, bensì saremo a intervistare esatto. Chi poi non avrà, chi non ha avuto spazio nel programma. Nella programmazione. E che anche loro non mangeranno. E che anche loro non mangeranno, quindi sì, esatto. Poi arriveremo dopo, che è tutto finito, appena finita l'intervista, la scena sarà stata spazzata. Ci nutriamo di va cultura. Va bene, dai, cultura. Polvere e cultura. Per fortuna ci potremo distrarre alle ore 21 con una proiezione. Sì, che appunto è collegata a quello di cui viene parlato la radioconversazione, è una proiezione di un'intervista a Debbie Bookchin, che è la figlia di Murray Bookchin, uno dei pensatori. Da cui poi anche tutta la rivoluzione curda la rivoluzione curda si è ispirata tutto. Prendendo le basi appunto per l'auto-organizzazione, l'autodeterminazione e l'autogestione delle proprie questioni. Esatto. Attenzione, alle 21.30 ora avete sentito parlare il grande lago. Noi adesso abbiamo un'intervista esclusiva scenotecnico e videomaker. Scenotecnico e videomaker della Polverea Teatro. Infatti alle 21.30 ci sarà uno spettacolo teatrale che si è intitolato Non era che l'inizio. Esatto. E adesso il nostro ospite ci spiegherà uno spettacolo. È una messa in scena a cura di La Polverea Teatro e Altro Teatro. Sì. In cui fondamentalmente si va a parlare dei movimenti sociali, cioè tramite le parole dei diretti interessati, di chi l'ha vissuta, si comincia dal 68 fondamentalmente per arrivare al G8 di Genova e poco oltre. È uno spettacolo che dura un'oretta e è composto da varie letture, varie interpretazioni, varie messe in scena, varie contributi video che prendono spunto e prendono le parole di vari personaggi come appunto Pasolini, Sartre, vari personaggi che sono stati attivi durante quegli anni. È un esperimento di teatro collettivo, nel senso in cui c'è un regista che è Antonello Nave, però tutta la gestione dello spettacolo è stata fatta tutti insieme, autogestita, insomma, come in pieno spirito del festival, certo, di cui è parte. E niente, è un bello spettacolo, un buon prodotto, ci sarà anche musica dal vivo durante lo spettacolo. pochi attori, alcuni emergenti, alcuni più navigati. Funziona, è un bello spettacolo e vi invito caldamente a partecipare, a vederlo. Ottimo. In tutto questo gratuito, va ricordato. Ah, certo, diciamo una gratuito. Cosa importante è che tutto quello che avviene al festival, tutto il festival in generale, tutto quello che avviene alla Polveriera Spazio Comune è sempre stato e sempre sarà gratuito. Viva. Bene. Viva. Il giorno dopo, e poi finito il teatro, uno sta un po' lì a chiacchierare e poi va a letto, penso. Sì, cioè, musichette by Radio Womba. Sì, spero. Cose del genere. Venerdì 18. Venerdì 18 si parte con alle 16 la prima presentazione, quindi si parte un po' prima. Donne contro, ribelli, sovversivi, antifasciste nel casellario politico centrale. Edizione Zero in condotta con l'autrice Martina Guerrini e Marco Rossi. Andando avanti, alle 17 un'altra presentazione secca. Vero? Un'altra presentazione secca è la presentazione della guida alla Firenze Ribelle con l'autore Riccardo Michelucci. Ora, noi alcune cose ce le siamo preparate perché ce le siamo preparate, altre non ce le siamo preparate, quindi invitiamo tutti a andare al festival, venire al festival e a scoprirle insieme. Anche perché è bella lunga, ci sono veramente tante cose. Bisogna fare una puntata di 3 ore solo su questa. Esatto, e praticamente la stiamo facendo, quindi insomma. E, guida alla Firenze Ribelle invece ce la siamo praticamente letta, sfogliata approfonditamente, diciamo. E è una guida a Firenze e ha tramite delle storie. Ci sono la guida è divisa in quartieri, cioè la città è divisa in quartieri, in strade, in piazze, e per ogni strada, piazza, quartiere c'è un gruppo di storie. Un gruppo di storie che provengono da svariate epoche storiche. Si va dal Rinascimento passando per la Resistenza, arrivando poi agli anni 60-70 e anche oggi. Anche 90, anche esatto. Veramente pochissimi anni fa c'è la strage di Piazza Dalmazia, ad esempio. C'è la strage di Piazza Dalmazia e la rivolta dei Ciompi. Si parte dalla rivolta dei Ciompi e si arriva alla strage di Piazza Dalmazia. Si può dire una cosa del genere? Sì. Quindi questo è un po' l'arco temporale di queste storie. È molto interessante perché molte di queste storie sono storie un po' nascoste, nel senso che magari sì, c'è una targa a ricordarle, o magari no, nel senso che, non, che sono storie nascoste nei palazzi, nelle vie del centro di Firenze, non solo, perché c'è tutta una parte sulle zone più periferiche della città. Ed è molto interessante rileggersi, sia per chi la conosce bene Firenze, sia per chi non la conosce, quali momenti di ribellione o di... Beh, sì, ne viene fuori che Firenze è di fatto... È stata una città ribelle. È stata una città molto. Fortemente ribelle, sì. Fortemente progressista, all'avanguardia, sì. su tanti temi, dalla psichiatria alla differenza di genere, cioè, quindi... Poi magari sì, negli ultimi anni senso... siamo un po' caduti su tutte queste cose, però ci sono stati davvero dei momenti e delle menti, sì. Veramente, sì. Avanti. Io per dire di questa guida mi sono segnato un po' delle cose che mi hanno colpito un po' di più, che appunto anche ve le racconto. La storia di Alessandro Sinigallia, da cui poi prende il nome la Brigata Sinigallia, una delle brigate partigiane più famose della Resistenza fiorentina. Alessandro Sinigallia, che è nato in via Pandolfini in Santa Croce, è morto in via Pandolfini ammazzato da una squadraccia fascista. Ci sono due storie sull'alluvione e sul carcere delle murate, che sono collegate perché durante l'alluvione nelle carceri murate ci fu una fuga di massa perché le celle furono aperte per non far affogare i detenuti che fuggirono. Tutta la storia del carcere delle murate, appunto, ci sono riportate le varie ribellioni che ci sono state all'interno del carcere, sia durante il Risorgimento, sia durante il periodo fascista, e sia negli anni 70. Ci sono state delle rivolte importanti negli anni 70, in cui anche il movimento studentesco partecipò da fuori, portando solidarietà a una rivolta per le condizioni del carcere, che erano ancora più disumane di quanto non sono adesso. C'è la storia di Giulio Ginanni, che è un ragazzo di 27 anni, un comico che durante il fascismo sbeffeggiava tutte le sere i gerarchi e i capi militari del fascismo, e fu ammazzato da una squadraccia. C'è la storia dell'albergo popolare di San Frediano, da cui è nato anche il giornale Fuori Binario. La battaglia dei Nidiaci, sempre in San Frediano. la storia del cinema universale. La questione di Radio Cora. C'era tutta la storia di Radio Cora, sia nel momento in cui Radio Cora fu scoperta, probabilmente per una soffiata dai fascisti, mentre stava trasmettendo tra l'altro delle informazioni molto preziose di controspionaggio, diciamo, perché poi Radio Cora è collegata con il comando alleato. Assolutamente, ha guidato molte incursioni aeree, sì. Molte ricognizioni con... Sì. Con materiale gettato nei paracaduti, insomma, esatto. È fondamentale. Tra l'altro, sì. A un certo punto gli alleati avevano mandato anche due tecnici loro, cioè gli americani avevano mandato due tecnici loro ad aiutare Radio Cora a migliorare le trasmissioni, le frequenze. Però anche cita, ad esempio, racconta una storia sulla nascita della controinformazione proprio a Firenze, grazie a Pio Baldelli. Che fra l'altro è un po' è il discorso che poi ha iniziato all'utilizzo delle frequenze e della liberazione delle frequenze, sì, negli esatto. anni nel 75 dopo. Sì, sì, sì, sì. Quindi è un po', diciamo, è anche storia nostra. Certo, assolutamente, ma poi sono tutte storie molto divertenti a leggere, nel senso che sono brevi, sono massimo di due pagine e mezzo. E prendono danno degli spunti interessanti. Sulla periferia, per esempio, racconta delle lotte operaie d'inizio Novecento a Refredi. La Galileo e le grandi industrie. Le grandi fabbriche che c'erano. Tra l'altro racconta anche la storia dell'ex Meccano Tessile, cioè una delle zone industriali più grandi di Firenze, che è rimasta in disuso e in abbandono. Ancora oggi, se non per un mezzo giardino è stato fatto, ma una zona in via del Alderotti, sì, non è zona Refredi, così nel dimenticatoio, un mostro lasciato lì a marcire fondamentalmente e aspettando probabilmente la migliore speculazione possibile. Storia mai sentita questa, strana, guarda davvero. Poi c'è la storia, vabbè, di nel senso. Sia una parte sui Refredi, sia una parte sulle Cure, sull'Isolotto, sull'Egnaia, su Scandicci, tutte zone che hanno dato la nascita a storie ribelli, come può essere quella del CP a Firenze Sud, la storia di Villa Triste, che ha portato al suo interno centinaia di ribelli che sono stati torturati e che sono stati lì senza confessare il nome dei propri compagni, che sono fatti ammazzare o torturare per evitare una sconfitta politica, militare durante la Resistenza. Vero, è Savonarola. In Piazza della Signoria, esatto. E tutte le faccende legate a quella questione, ma anche tutta c'è anche tutta la parte di Savonarola legata a Piazza San Marco, che collega in modo anche abbastanza carino il fatto che San Marco poi è diventata la piazza che dal movimento della Pantera in poi è stata il centro e la partenza di tutte le manifestazioni che sono avvenute a Firenze. Ne potremmo dire tantissime perché veramente altre. Sono una quantità altre. Di curiosità, sì. e infatti invitiamo poi al festival, perché io penso che poi l'autore parlerà di queste storie, di come le ha trovate, di come le ha scovate, di chi le ha raccontate e di come poi le ha riportate. Ne potremmo leggere una. Leggiamola, dai. Ce la sentiamo? Sì, ne avevi trovata una. Una, ho scelto una e la possiamo leggere. Si chiama... È nella sezione dedicata a Piazza della Repubblica, alla zona di Piazza della Repubblica, e si chiama L'attentato ai nazisti al caffè Pascoschi. Con i suoi camerieri in alta uniforme, i lucernari di cristallo e le sale déco affacciate su Piazza Repubblica, il caffè Pascoschi è da oltre un secolo uno dei ritrovi più famosi ed esclusivi del centro di Firenze. All'inizio del Novecento, il polacco Karol Pascoschi, figlio di un insorto della rivolta antirussa del 1863, rilevò il vecchio caffè centrale e lo trasformò in un ritrovo per l'alta borghesia e i turisti più abbienti. Pochi sanno però che nelle sue scintillanti stanze interne si consumò uno dei gesti più temerari della resistenza fiorentina, durante la guerra di liberazione del nazifascismo. In un freddo pomeriggio del febbraio 1944, una giovane coppia fece capolino nelle grandi porte a vetri e si sedette a uno dei tavolini nel locale. All'epoca ritrovo abituale dei comandanti nazisti e degli ufficiali repubblichini. Sembravano due innamorati, lei con una giacca rossa e una borsa di pelle nera, lui in impermeabile bianco. Dopo aver ordinato e pagato un caffè, lei estrasse dalla borsa un pacchetto avvolto in carta di giornale e lo porse al suo compagno che, con gesto fulmineo, lo scartò e ne agganciò il contenuto sotto il tavolo. Quando però i due si alzarono e fecero per uscire, qualcosa andò storto. La bomba non era stata fissata al tavolo e cadde. La ragazza se ne accorse, spense la miccia e ripose l'ordine nella borsa, tentando di allontanarsi. Ma la gente seduta intorno, già insospettita, si avventò su di loro per chiedere di vedere cosa ci fosse nella borsetta. Ne nacque un parapiglia dal quale solo il ragazzo, il gappista Antonio Ignesti, riuscì a fuggire. La sua compagna, il cui nome era Tosca Bucarelli, venne invece catturata dai fascisti. Tosca aveva appena 22 anni e al momento era l'unica donna attiva nelle file dei GAP, gruppi di azione patriottica fiorentini. Figlia di un ferroviario antifascista, aveva iniziato a lavorare nel soccorso russo già a 17 anni. L'8 settembre era andata a liberare le sue iniziative i soldati rinchiusi nella caserma Lupi di Toscana, che si trovava vicino a casa sua a Scandicci. Li aveva fatti uscire dalle fogne, usando quei percorsi sotterranei che conosceva bene perché ci aveva giocato da bambina. Per l'attentato al caffè Pascoschi si era pensato alla Toschina, come tutti continuavano a chiamarla affettuosamente anche dopo la guerra, per il suo coraggio, la sua fedeltà ai valori della resistenza, ma è scelta si sarebbe rivelata più azzeccata. Quel pomeriggio di febbraio del 44, Tosca Bucarelli venne portata a Villa Triste, il centro di tortura della famigerata Banda Carità, su via Bolognese. Subisce giorni di interrogatori, durante i quali i fascisti la picchiano e la torturano ferocemente, procurando le gravi lesioni, che si porterà dietro per tutta la vita. Con la sua testimonianza potrebbe far arrestare tutto il comando partigiano, ma lei riesce a resistere alle torture, non parla. Dalla sua bocca non esce la minima informazione che possa rivelarsi utile per incastrare i compagni. In attesa dell'esecuzione o della deportazione, viene trasferita nel carcere femminile di Santa Verdiana. Sarebbe stata sicuramente destinata alla pena di morte o alla deportazione se il 9 luglio, dopo 5 mesi di prigionia, non fosse stata liberata da un gruppo di gappisti che si introdussero nella carcere in divisa della Wehrmacht, facendola scappare insieme ad altre 16 detenute antifasciste. A pianificare l'operazione era stato il comunista Roberto Martini, che un paio di mesi dopo la liberazione di Firenze si unì con Tosca in matrimonio celebrato al primo sindaco eletto della città liberata, Mario Fabiani. Dopo la guerra, Tosca Bucarelli venne decorata con la medaglia d'argento al valor militare per la resistenza. Il bel documentario del 65, La donna nella resistenza, di Liliana Cavani, ce la mostra poco più che quarantenne, tra le voci femminili che raccontano quel periodo a distanza di 20 anni. Di fronte alla tortura provai più ribellione che paura, ebbe il modo di ricordare. In quei momenti c'è qualcosa che ci dà un coraggio tutto particolare, ma certo provai anche paura, perché una persona che in quei momenti non prova paura è incosciente. La Toschina è morta nel gennaio del 2000 a Scandicci, dove era nata. Eccoci. E questa è la storia appunto della Toschina, quindi una compagna antifascista che a 22 anni era andata a mettere una bomba per ammazzare gli alti comandi nazisti e repubblichini. Era stata arrestata, non aveva parlato, a Villa Triste di fronte a delle torture indicibili e poi era stata liberata dai compagni che si erano vestiti da tedeschi, da ufficiali dell'esercito nazista, si erano introdotti nel carcere di Santa Verdiana e aveva liberato 16 compagni. Boh, questo è l'ennesimo e uno dei tantissimi episodi della resistenza italiana che a me fanno accapponare la pelle, nel senso che a 22 anni vabbè. Sì, accanto a noi, cioè nel senso una città che... Sì, cioè, vabbè. Il coraggio infinito, ecco, di queste grande persone. Toschina. Grandi tutti e tutte. E comunque... Comunque ho letto anche la storia non soltanto perché era particolarmente, mi aveva particolarmente colpito, ma anche per rendere conto un po' della forma di questo libro, che è molto divertente. Quindi ritorniamo lì, quindi ore 17 c'è questa cosa, un'oretta di presentazione, esatto. Per poi alle 18 andare avanti con dialoghi, un tavolo in città e accoglienza, a partire dalla presentazione di due libri che sono Abbandoni e assembramenti urbani, assembramenti umani e spazi urbani, con l'autrice Antonella Romeo, sì. E La città e l'accoglienza invece con Ilaria D'Agostini ed Enzo Scandurra. Il primo è edizioni Seb 27, la seconda invece Manifesto Libri. Quindi questo è un tavolo a partire, cioè, su temi che noi trattiamo abbondantemente, abbiamo settimanalmente, ormai, settimanalmente, sì. Praticamente sì, si può dire settimanalmente perché ogni settimana all'incirca ci troviamo a leggere articoli inerenti a questo tema, spesso anche articoli della stessa Ilaria Agostini, che fra l'altro, se la vogliamo dire tutta, poche ore fa era ai microfoni di Radio Wombat su Passaggi a Nord-Ovest, stampa rassegnata, stava proprio parlando del piano regolatore fiorentino e di come questo viene modificato un po' a piacimento dell'amministrazione e delle speculazioni. Coincidenze? Non credo, però. Ma io questo non credo, perché veramente volevo scatenare in te questo, esattamente questo. Non proprio coincidenze, diciamo, no. Che ne viene fuori una ogni settimana e quindi coincidenze, cioè, di interessi, esatto. E a proposito, infatti, a proposito degli argostini e di questo tema, abbiamo, e dell'ultima cosa che abbiamo detto riguardo a questo tema, io vi ho portato un articolo, almeno sì, un articolo e parte invece di una dichiarazione di una rete che si chiama SET, South Europe Against Tourism, la rete della città SET. Praticamente è una rete a livello europeo che si è formata e vi fanno parte attivisti di città in grosse difficoltà proprio a causa del turismo e della monocultura del turismo all'interno degli spazi urbani. È di Ilaria Agostini, porta anche il manifesto del SET, è una rete che si ritrova ogni sei mesi, si è ritrovata ad aprile a Venezia, il prossimo incontro, appunto capito, Venezia, il prossimo incontro invece sarà a Barcellona, vi fanno parte città del sud Europa, come appunto Venezia, Valencia, Siviglia, Palma, Pamplona, Lisbona, Malta, Malaga, Madrid, Girona, San Sebastian, Donostia, le Canarie, Camp de Tarragona, Barcellona e ora infine anche Firenze. Firenze. Proprio di Palma noi avevamo parlato quando di Palma di Maiorca qualche puntata fa, perché aveva regolamentato in modo molto stretto l'utilizzo delle locazioni con Airbnb, gli affitti turistici, vietandoli in molte parti della città. Nardella era venuto fuori dicendo ma ci servono più strumenti per governare. Comunque di fatto che cos'è SET? SET, dice Ilaria Agostini, è una voce plurale di critica al modello turistico attuale che mette in rete le soggettività e le esperienze di base attive nella controffensiva alla soffocante estensione dell'industria turistica negli ambienti di vita urbana. I temi fondamentalmente sono il diritto alla città, il diritto all'abitare, che è negato dagli affitti, dalla proliferazione degli affitti turistici, la svendita del patrimonio pubblico, le sottrazioni degli spazi comuni, la saturazione dei servizi pubblici come i trasporti, la sanità e via discorrendo, la precarietà lavorativa nella fabbrica del turismo, perché sappiamo che produce lavoro, sì, ma molto molto precario. Il carico urbanistico degli afflussi turistici, la compromissione della salute degli ambienti urbani, l'ubicazione l'abdicazione alla pianificazione urbanistica in nome della libertà di movimento dei capitali e della valorizzazione delle rendite immobiliari. Quindi tutto quello che noi trattiamo da più o meno da quando siamo nati. Questo per non so, potrei ancora citare veramente il manifesto di questo SET, ve ne cito solo alcuni punti. L'aumento il più importante di essi è l'aumento della precarizzazione del diritto all'alloggio. Questi sono i punti che ritengono problematici, che le abitazioni sono private delle loro funzioni naturali, perché si genera gentrificazioni e sfratti, lo svuotamento dei quartieri, l'aumento dei prezzi e via discorrendo. Quindi questo anche per introdurre un po' alla figura di Ilaria Agostini, che terrà questo interessantissimo tavolo, e continueremo a seguire questa rete. Appunto, l'appuntamento è a Barcellona, giusto il 17 e 18 di maggio, durante il festival. Quindi magari in futuro vi faremo avere nuove notizie. Sì, qualche notizia. Andando avanti con il programma, andando avanti con il programma, alle 19.30 ci sarà un'altra presentazione a cura di Autistici Inventati e con l'autrice Carola Frediani. Il libro è Guerre di Rete, pubblicato dalla Terza anche questo l'anno scorso. E a seguire la cena di autofinanziamento del festival, e alle 21 si va avanti un po' con il nostro lato hack, diciamo, e sarà un tavolo dialogo su big data e individui, quindi il rapporto tra la gestione dei dati, i nostri dati personali che vengono rimessi online, eccetera eccetera. Anche questo tema di cui avete parlato la scorsa puntata con proprio l'autore che verrà ma guarda al un festival, po' Daniele Gambetta, che è questo, Daniele Gambetta, che ha scritto Datacrazia, che sarà uno dei due libri da cui si partirà per parlare di questi big data e individui. L'altro autore è Gregorio Magini, che ha appena pubblicato con Perneo Edizioni Cometa, un libro che è al momento è un mistero, perché io non l'ho letto, e secondo me non è uscito ancora, però comunque scopriremo tutto venerdì 18 alle 21. Questa sarà l'ultima presentazione della serata, ci sarà convivialità, chiacchiere e birrette, e poi tutti a letto. E noi ora magari potremmo anche mandare un pezzo. Adesso noi mandiamo un pezzo. È vero, regista? C'è il regista? Sì, eccomi. Mi ero un po' addormentato. Oi, questo è un brutto segno. Se si addormenta il regista vuol dire che ci ascolta. È un casino. No, non volevo farvi prendere si può anche mandare a fanculo il regista a un certo punto. Mandami in culo, sì, vai. È giusto. Movimentiamola mandandomi in culo. Vai in culo. Vado in culo, sì. Mandaci un'anzione, vai. Però nel frattempo vi mando un pezzaccio. Ve lo mando movimentato, però. Vai. È corto e movimentato. Oh, woman, when I seen you coming, I should have started running, you evil woman. Oh, woman, I offered to you my soul, you ran it over hot coals, evil woman. Oh, woman, I thought you were a blessing, but then I caught you missing. Oh, woman, you ain't got no feelings, just your dirty dealings. Oh, evil woman, yeah, the law's gonna reckon. Evil woman, yeah, the law's gonna beckon you. Gonna beckon you. Oh, yeah. Woman, people whisper to me all the hurt you do me, you evil woman. Oh, woman, the way you work your way in, getting under my skin, you evil woman. Oh, woman, the way you laughed at my pain, the way you're stripping my brain. Oh, woman, there were other choices, I didn't hear those voices. Evil woman, yeah, the law's gonna reckon. Evil woman, yeah, the law's gonna beckon. Evil woman, can't you see where you're falling? Evil woman, yeah, the devil is calling you. And when your life is full grown, written on your tombstone, they will say that you are just an evil woman. They're gonna say that you were just an evil woman with your dirty dealings. Evil woman, didn't care about my feelings. Evil woman, evil woman, you evil woman. Wow, evil woman. Messo su una zattera. Eccoci. Mi sembra di essere su una zattera, non so se siamo su una zattera, siamo su un galeone che sta affondando, per esattezza. Però è tutto molto figo, dai. Tutto è molto figo, sì. Un galeone pieno di libri. Siamo tutti di amici. Molto in forma. Siamo tutti molto in forma. Questa è una citazione, voi non pensate che noi diciamo le cose a caso. No. Mai cose a caso. Mai. No, allora, mai, soprattutto adesso che ci stiamo preparando ai prossimi 20 minuti circa, andiamo a sentire uno che di cose a caso ne dice veramente poche, mi sembra, no? Sì. Pensavo tu dicessi tante, mi sarebbe piaciuto tanto. No, è Nino. Ci possiamo fidare di Nino? Ci possiamo fidare di Denuzzo? Un bravo guaglione. E ci facciamo spezzare o core così? E dai, facciamocelo spezzare. Via. caccia fa. Ah, amiconi di Fuoco alle Polveri, ciao, di nuovo con Due Pezzi e Core. Ritorno a parlare, come avevo promesso, ciao, la scorsa settimana, di Giuni Russo. Adesso ci sentiamo un pezzetto di questa canzone. Allora sì, torniamo a parlare di Giuni Russo, cioè di Giuseppa Romeo, ci ricordiamo. Ci eravamo fermati la scorsa volta, alla fine degli anni 70, quando collaborava con Malgioglio e con la sua carissima amica Maria Antonietta Sisini, con cui collaborerà per il resto della sua vita. Ed eravamo arrivati alle porte della grande svolta della sua vita, perché cos'era successo? La buona Maria Antonietta Sisini le aveva presentato un tale Alberto Radius, che era un chitarrista, anche produttore, il quale aveva a sua volta provato a presentarla alla CGD, che era una etichetta discografica molto importante. Al tempo il direttore artistico era un tale Alfredo Cerruti, il quale ascolta i pezzi di Giuni e dice: sì, bella voce, tutto quello che vuoi, però non mi convince. Sempre Radius non si darà per vinto e la presenterà invece a Battiato. Insieme faranno 3 mega pezzi, perché Battiato chiaramente intuisce il potenziale vocale di questa qui, che era veramente spaventosa, e scrive per lei 3 pezzi, appunto, di cui Una vipera sarò, che abbiamo sentito l'altra volta. Gli altri sono L'addio e Crisi metropolitana. Con questi nuovi 3 pezzi si ripresentano alla CGD, dove al tempo c'era Caterina Caselli, quella di Nessuno mi può giudicare, insomma lei, detta il casco biondo, che al tempo faceva la talent scout per questa etichetta. Lei vede del potenziale anche lei dentro Giuni e le promette, insomma le fa firmare un contratto tra l'altro veramente indegno, perché la costringono per contratto a fare 5 album in 5 anni, praticamente la spremono come un limone. Infatti poi vedremo che la situazione discografica di Giuni sarà delle più tempestose. Insomma, il primo CD che fanno si chiama Energie, grande tendenza sperimentale da parte di Giuni Russo, che fa questo CD veramente matto. Ragazzi, andatevelo a ascoltare, è davvero bellissimo. Chiaramente c'è lo zampino di Battiato nella maggior parte degli arrangiamenti. La canzone che stiamo ascoltando qui sotto è Limonata Cha Cha Cha, ed è una canzone che è in Mediterranea, è il terzo album che lei farà per contratto, uscirà nell'84 e sarà pieno di pezzi balneari di questo genere. Questo perché? Perché Giuni ebbe la fortuna, o la sfortuna, diciamo, di accettare nell'82 un pezzo scritto da Battiato, che era Un'estate al mare, che sentiremo fra poco. È stato un tormentone, un successone incredibile, proprio nell'82, primo in classifica per quasi 8 mesi, vince la sezione del Disco Verde, questo, di Festival Bar, non il Festival Bar totale, ma la sezione del Disco Verde, fa il disco d'oro di vendite, vince anche il concorso Vota la Voce di TV Sorrisi e Canzoni, insomma un mega successo. E chiaramente l'etichetta discografica, per fare perno su questa cosa, la costringe a fare canzoni balneari per il resto del contratto, appunto. Per lei, che invece sperava che fosse solamente una parentesi commerciale per poi tornare a sperimentare, questa cosa fu abbastanza tragica, anche perché la CGD, appunto l'etichetta, non la pensava così e glielo fece capire bene nei suoi 2 album successivi, che sono Vox e Mediterranea, i quali titoli dei singoli lanciati, per dire così, sono Sere d'agosto, Abbronzate dai miraggi, Limonata Cha Cha Cha, che stiamo ascoltando qui sotto, Buenos Aires, appunto Mediterranea. Prima di andare oltre e di spiegare quanta crisi portò questa scelta discografica, ci sentiamo quel grande successone che fu Un'estate al mare del 1982, il testo di Battiato e la musica sempre di Battiato, insieme a una persona dal nome più devoto che abbia mai sentito, Giusto Pio. Vai, Giuni Russo. strade, mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come è vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le vacanze. Un'estate al mare, voglia di remare, fare bagno al largo per vedere da lontano gli ombrelloni, oni, oni. Un'estate al mare, stile balneare, fuori salva gente per paura di affogare. Sopra i ponti delle autostrade c'è qualcuno fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze. Un'estate al mare, voglia di remare, fare bagno al largo per vedere da lontano gli ombrelloni, oni, oni. Un'estate al mare, stile balneare, cuore salva gente per paura di affogare. Quest'estate ce ne andremo al mare. Insomma, sentite i gabbiani, che cosa matta, quella è lei che canta. Insomma, nell'84 Giuni fa uscire il terzo CD, Mediterranea, con dei pezzi incredibili, tra cui La follia che stiamo ascoltando qui sotto, che è L'oracolo di Delfi, il nome della canzone, ma chiaramente Caterina Caselli preferirà mandare come singoli per lanciare il CD pezzi tipo La limonata cia cia cia che stavamo ascoltando prima. Insomma, i rapporti con l'etichetta si incrinano sempre di più e la famosa goccia che fa traboccare il vaso arriva nell'85, quando Giuni e Maria Antonietta Sisini stanno scrivendo il loro nuovo album, lo propongono all'etichetta, ma la CGD gli dice: guardate, l'uscita ve la facciamo, l'uscita dell'album ve la posticipiamo a metà luglio, il che praticamente vuol dire uccidere le possibilità economiche di un album, perché nel mezzo della stagione, poco prima che siano una o due settimane prima che vengano lanciati i nuovi pezzi della stagione autunnale, quindi praticamente gli avrebbe dato pochissima importanza, nessuno se la sarebbe filata. Così Giuni Russo propone ai discografici di firmare una liberatoria di comune accordo, dicendo che i discografici non credevano più in lei, nel suo lavoro, e ne ostacolavano l'evoluzione artistica. Il direttore così le offrì la liberatoria in cambio di un documento in cui lei avesse annunciato di rinunciare per sempre alla carriera di cantante. Poi praticamente temettero che lei potesse ripercorrere, potesse insomma attuare delle ripercussioni legali con il vecchio contratto, che era proprio una ladrata, e quindi le concessero questa liberatoria, però scrivendoci a chiare lettere che lei era una tipa ingestibile, per sfiduciare insomma le altre case discografiche a prenderla e che la CGD non avrebbe più assolutamente lavorato con lei. Dopo un po' nell'86 riesce per fortuna a trovare un'etichetta che se la prenda, la Babo Records, un'etichetta indipendente che non aveva i legami, insomma, i vari brogli che faceva la CGD, e riesce a pubblicare Juni, che è proprio il nome dell'album che lei stava scrivendo con Anita Sisini, che avevano congelato perché l'etichetta non gli permetteva di farlo uscire. Dentro questo album, mega singolone, cioè Alghero. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mi auguro che la conosciate già, quindi non ce la sentiamo, piuttosto ci sentiamo un pezzettino piccolino di un pezzo meraviglioso che è uscito nell'album subito successivo, sempre per la Babbo Records. Il nome dell'album, e questo veramente grazie Giuni mi sei nel cuore, è Album. E dentro questo album bellissimo c'è anche il suo primo featuring, per dirla la moderna, tra l'altro con una persona che anche lei era al suo primo featuring, cioè Donatella Rettore. Fanno insieme questo pezzone iperfemminista e si chiama Adrenalina. Insomma, dall'88 in poi Juni Russo finalmente prende la via che aveva sempre voluto, cioè quella dello sperimentalismo musicale, della cosiddetta musica di confine, e pubblica due album incredibili. Il primo è A casa, di Ida Rubinstein, che era un personaggio della Belle Époque, un personaggio femminile molto importante, in cui interpreta arie da camera, romanze di Verdi, Donizetti, rivisitate in una chiave un po' strana, un po' ibrida, come faceva lei, tra la classica, il pop, il jazz. Questa che viene definita, insomma, musica di confine, che alla metà degli anni 80 ancora non andava, poi scoppiò in Italia negli anni 90. Intanto la CGD pubblicava cofanetti con le più belle canzoni, negando le royalty a lei, questo è normale, e Juni invece andava avanti verso l'avanguardia, come ha sempre fatto, fino a che, per fortuna, la Warner Music Group, che comprò quegli sfigati della CGD, non comprò questa etichetta e riassunse finalmente Juni Russo. Adesso ci sentiamo, intanto, come secondo pezzo, Demential Song, un pezzo veramente meraviglioso, del 1984, contenuto in Mediterranea, il CD che dicevamo prima, ragazzi, una bomba. Sentite che voce assurda che ha, è incredibile. Juni Russo, Demential Song. Sai cos'è il demenziale? La televisione, che non se ne può più. Io già lo dicevo da allora, capisci? Ora, povera me, io dicevo certe cose e forse non potevo dire, allora qualcuno diceva, ma questa perché non la togliamo di mezzo? Non lo so, però facciamola sentire, no? Così mi tolgono di mezzo una volta per sempre. Ah, e la finiamo con queste interviste, ciao! Dei lati più scuri di questa terra si trova l'Afghanistan. E sulle strade in Africa del Nord è già scoppiata un'altra guerra. Questa TV l'accendo io, l'accendi tu, un po' di musica ci tira su. Demenzial song, demenzial film, demenziale. Questa TV la spengo io, la spegni tu. Telegiornale non ne posso più. Afghanistan, Gerusalemme, America, Polonia. Afghanistan, Gerusalemme, America, Polonia. la terra, rimane l'Afghanistan. Mentre in agguato in Africa del Nord, la corazzata americana. Questa TV, TV private non ne posso più. Jerusalem, America, Polonia, Afghanistan, Jerusalem, America, Polonia. Insomma, la strada di Giuni continuerà ancora un bel po'. Nel 94 uscirà uno dei suoi ultimi CD, tra l'altro l'abbiamo sentito come oggi nel finale della scorsa rubrica, e cioè Se fossi più simpatica sarei meno antipatica, con come testo, usando la poesia filastrocca, come vogliamo chiamarla, da cabaret, insomma, di Petrolini, che Se fossi più simpatico sarei meno antipatico, che stiamo sentendo qui sotto. Nel CD, tra l'altro, aveva riusato vari... si era avvalsa di collaborazioni con poeti, scrittori, giornalisti, aveva anche, era anche andata a spulciare testi sacri e antichi, soprattutto San Giovanni della Croce. Ha scritto due canzoni meravigliose insieme a Battiato con i testi di San Giovanni della Croce, che sono La sposa e La sua figura. Ascoltateveli perché sono veramente meravigliosi. Io non ve li mando perché mando solo le canzoncine allegre, però questi sono veramente bellissime canzoni. Provò ad andare a Sanremo e venne esclusa in extremis dopo aver passato tutte quante le qualifiche, insomma. Purtroppo la sua vita non durò abbastanza, perché abbastanza per potercela godere anche noi, perché muore nel 2004 a 53 anni di cancro, purtroppo. Adesso tuttora resiste di lei un'associazione culturale che si chiama Giuni Russo Arte, che ha fatto la sua grandissima amicona Maria Antonietta Sisini, co-scrittrice, collaboratrice, musicista. Tra l'altro, se andate sul sito, in home page c'è anche una un piccolo estratto di una lettera di Papa Francesco a Maria Antonietta Sisini. E allarga il cuore. Insomma, un bacione, ragazzoni di Fuoco alle Polveri. Ci risentiamo la prossima volta. Spero vi sia piaciuta Giuni. Ascoltatela. E viva Fuoco alle Polveri e viva Radio Wombat. Dai, dai, dai. Anche le foche bevono Radio Wombat. Pa pa pa pa pa. Buonasera. E anche le foche bevono Radio Wombat. Viva fuoco alle polveri, viva Radio Wombat. Insomma, viva. Siete tornati in diretta per la 65esima volta. Viva Nino, grazie, grazie per i preziosissimi contributi. La sua rubrica è sempre ottima, è sempre croccante e scoppiettante. E noi con grande piacere la passiamo. Nino, quando sarai di nuovo con noi? Chissà. Speriamo presto. Speriamo presto, perché speriamo i nostri cuori non reggono senza di te. Ma con un grande salto da Giugni Russo alle Anch'io foche. Anch'io voglio andare dal Piero, comunque, in compagnia di uno straniero, così un po'. Sì. Sì. Bello Alghero. Bello Alghero, sì, molto bello Alghero. Vabbè, facciamo il salto? Fai il salto, vai. Facciamo il salto sul sabato 19 maggio della, sì, del festival? Facciamolo, vai, bello. Facciamolo, bello, sì. Vai. Non abbiamo finito di annoiarvi perché il programma del festival prosegue anche sabato e domenica. Bravo. Sabato dalle ore 16, una presentazione secca, Evalen, edizione Allegre del 2017, con l'autore Davide Grasso e Vanni Santoni. Evalen l'abbiamo un po' leggiucchiato anche qui a Fuoco alle Polveri. È una sorta di una metà tra un saggio, un racconto di viaggio e un non so quanti altri generi dentro, in cui Davide Grasso, attivista torinese, racconta del suo viaggio in Rojava e della sua esperienza tra le file degli FG. Andando avanti, alle 17. Un tavolo a 17, durerà 2 ore. Questi tavoli, le presentazioni di solito durano un'oretta, una cosa del genere. I tavoli di solito invece un paio d'ore durano. Il tavolo parte dalla presentazione di 2 libri. Uno è un romanzo e uno è un saggio. Il romanzo si chiama 108 metri, The New Working Class Hero, di Alberto Pronetti. Mentre il saggio si chiama... Attenzione. Non è lavoro e sfruttamento, ecco. Di La Terza, sì, di Marta Fana. Ecco. Il tavolo è stato denominato narrativa working class, quindi cercherà di interrogare quali sono le forme della working class, quindi la classe lavoratrice, del proletariato oggi, come si organizza questo proletariato e soprattutto come si racconta, essendo il festival del teatro sociale, soprattutto come si racconta. I 2 libri sono diversi, molto diversi tra loro, però è anche interessante vedere come si accoppiano, nel senso che Marta Fan nel suo saggio racconta le forme dello sfruttamento del lavoro oggi, proprio anche ricollegandoci a quello che dicevamo prima sulla città precaria, nel senso all'interno delle città turistiche, come poi il lavoratore viene sempre più precarizzato. E anche attraverso le piattaforme digitali, fra l'altro. E anche attraverso le ricollegiamoci digitali. Ancora a Gambetta e a... Sì. E a anche tutta la questione dei riders. Sì, e la questione dei riders, dopo nomineremo. E il protagonista di 108 metri scappa dall'Italia, scappa dai lavoretti stagionali sulla Riviera Toscana e cerca lavoro a Londra, anzi a Bristol, Inghilterra. E dove cosa trova? L'Eden, il paradiso del lavoro, i soldi, no, assolutamente no. Ritrova anche lì il precariato, il proletariato in cui costituisce una sorta di ciurma che governa i ristoranti del Regno Unito e i centri commerciali. Il libro è molto divertente e sarà molto interessante sentire questi due autori che dialogheranno su questo tema. Leggo una cosina veloce. Prego. Breve preambolo. Questo ragazzo, che poi è Alberto Pronetti in realtà, spoiler, va a lavorare a Bristol, in fuga dalla Brianza Toscana. Il babbo, vecchio operaio delle acciaierie di Piombino, gli deve dare delle raccomandazioni e quindi niente, gli dà i 10 comandamenti. Ha dato fiato ai polmoni, ora è più calmo. Io ho capito di aver vinto la partita. Lui riattacca: e ricordati che si può le studiare, ma l'importante è non tradir le regole. Che regole, babbo? Questa cosa dei 10 comandamenti che io e i miei colleghi si è sempre rispettato. Non pensa che se ti lauri poi diventi cane dall'ecco del padrone. Non pensa di poter pisciare sui nostri 10 comandamenti e farla liscia. E che roba è, chiedo io? Sono regole che valgono in qualsiasi cantiere, anche se vai a lavorare all'estero oppure se usi il geodolide invece della saldatrice. Semplici. Dai una mano ai tuoi soci. Sciopera. Non le calcolo al capo. non fa il crumiro, non inferi se ti tocca menà, non prendertela troppo coi pisani, sono umani pure loro, diffida dei quattrinai, se uno studiato ti chiama signore, mettiti col culo al muro, più una o due massime che ora non mi ricordo, regole universali che valgono ovunque ci sia la classe operaia, in tutto il mondo, uno che è andato in una piattaforma offshore in Scozia mi ha detto che lo usano anche nel mare del nord, sono le stesse, paro paro, quindi bimbo, occhio, polso saldo e niente scherzi, studia ma non fa il furbo, sei il mio figliolo e non puoi tradire le regole, se ti metti a fare il lecchino dei quattrinai ti prendo a pedate anche il giorno che ti laurei, ora principi a studiare. E queste sono... Direi che sì, si spiega da solo, caro babbo di Alberto Prunetti. Sì, saggio, saggio babbo di Alberto saggio Prunetti. Babbo. Vai, e questo dai. È il punto del tavolo, si è detto, il tavolo narrativa working class. Fino alle 19 perché sì, ci sarà perché una presentazione. Alle sì. 19, due ore, poi presentazione, mutualismo, ritorno al futuro per la sinistra, una delle edizioni Allegre del 2018 con l'autore Salvatore Cannavò e Francesco Valente di Mondeggi Bene Comune, che abbiamo avuto ai nostri microfoni in più di un'occasione e abbiamo potuto apprezzare le parole di Francesco. Leggo un rigo che è: il libro ripercorre la storia e i dibattiti delle esperienze di autogestione e mutualismo dalla fine dell'Ottocento a oggi, mostrando l'impasto su cui poggiare i mattoni di una nuova credibilità politica. Si tratta di un mutualismo politico inconflittuale perché non accetta la dimensione di lenitivo delle disuguaglianze e non si integra in un processo di smantellamento dello Stato sociale, anzi, affermando la propria capacità di autogoverno, indica un'idea alternativa di democrazia e di società, il mutualismo. Quindi questo è il tema principale del libro, che è il mutualismo, e è interessante perché è una panoramica appunto dalle forme di autogestione di fine Ottocento, quindi è una panoramica storica molto interessante. Bene, un'oretta di questa discussione, poi alle ore 20 la cena sempre di autofinanziamento e il dopo cena che è, direi, scoppiettante perché avremo lo spettacolo alle ore 21, fiore in verso di Lello Voce, sì. in parola, lettura da campo profughi del Libano di Ivan Tressoldi. Sì, che c'è, sì, anche l'anno scorso ha partecipato al festival, e un poi... bellissimo spettacolo su Dante. E per finire un set per 7 video con Fasca e le performance di Fumofonico e le musiche di Nao. Fumofonico li conosciamo, sono sì. stati ai nostri microfoni proprio qui a Fuoco alle Polveri e abbiamo in quell'occasione anche ascoltato e parlato di Lello Voce. Forse abbiamo anche un contributo di Lello Voce. Sì, lo mandiamo dopo, a questo punto facciamo anche forse lo mandiamo adesso, vedi? Lo mandiamo adesso. Sì. È un pezzo di Lello Voce, farvi rendere conto un po' di cosa stiamo parlando. Si sta parlando di slam poetry, comunque. Sì, di slam poetry, di poesia parlata. Così non va, non va, non va. Ti dico che così non va. Come una supernova esplosa, come un astro strizzato di fresco, come la tua bocca stanca e tesa, accelerata come particella. Ora non so più nemmeno se sia una stella o invece paillette incollata allo sguardo, scheggia di diamante che ti fora le pupille o desiderio di luce che sfarfalla all'orizzonte dell'ultimo oltremondo. Viaggio, condanna che ci danna, panna acida che ingozza la parola che ora già ci strozza. Che così non va, non va, non va. È ormai soltanto un buco nero di sentimenti e fiati. Amore addomesticato, casalingo, come un tigre prigioniero. Invece credi che dovremmo dimissionare l'anima e restar lì a vedere se alla fine ci sarà il premio, il lingotto, la crociera che ci crocifigge, lo sforzo che infine ci infigge nel ricordo, lo share di un suicidio spettacolare e notiziabile, sintesi ultima dello scibile di noi genere umano, di noi genere estinto, di noi umani generati, usati, rottamati. Se ti parlo ormai non mi parlo, se mi parlo ormai non ti parlo, e se ne parlo, credimi, è solo perché nel fiato che si ride in pensieri resta la nostalgia di quando era ieri. Resta la nostalgia di quando era ieri. Così non dura, non dura, non dura. Vi dico che così non dura. Qui si muore di fame ed obesità, si muore di ricchezza e povertà, si muore di solitudine e rumore, si muore in nome di Dio per liberarsi di Dio, si muore per il solo gusto di farlo e sentirsi anche solo per un attimo Dio, ed io che qui trafitto stringo al petto tutto il mio disfatto me, straccio il contratto e già tremo nel tirare il dado, credetemi, vedrete che alla fine della fine saremo colpevoli nostro malgrado e ci saranno fiumi inutili di sangue, inchiostro, mostri. Perché così non dura, non dura, non dura. Forse saranno gli uccelli a ombrulicare di insetti, o gli occhi stretti delle belve, degli esseri striscianti delle selve. Né ce ne saranno in salvo, ma ce ne saranno invece di feroci dal cuore calvo, e le mascelle strette a digrignarci le colpe, a morderci l'anima al garretto, a strapparci confessioni torturate dal privilegio, a dettare l'ultimo florilegio, lo spasimo ironico che con un rutto dirà punto e basta, che dell'ultimo distrutto farà monumento del lamento, sberleffo, sentimento spento, tormento. Se vi parlo ormai non mi parlo, se mi parlo ormai non vi parlo, e se ne parlo, credetemi, è solo perché le parole sono il ritmo della riscossa, insulto, autismo acre che dà la scossa, insulto, autismo acre che dà la scossa. Così finisce male, male, male, gli dico che così finisce male. Perché ormai non ci sono più perché, né parole adatte allo sbigottimento, né attimi di innamoramento, né voglia di vento, perché si vive di spavento contento, di buio a cinque stelle, di corpi senza pelle, di cielo senza faville, di mascelle serrate, di maschere clonate, si vive di ignominia e falsità, e il male è un'ovvietà, un'abitudine, un luogo comune, un vestito rozzo e tozzo sul futuro, un muro duro e scuro, scudo, transazione emozionale, investimento sentimentale senza sale, perché così finisce male, male, male. E non vale il trucco dell'opulenza, né quello bieco della scienza, non vale il Dow Jones che sale, non vale la conquista dello spazio, e nemmeno la commozione per lo strazio, né le viscere immolate all'eterna sordità del cielo, solo forse, strappando il velo forse, scavando fino alle radici del melo e del canto comune dell'aspro pelo. E del gastrico gonfio di gas e bugie, gonfio di cibo e bolo e chimo, e chilo dopo chilo dimagrirsi il profitto, sino a renderlo esistenza, scommessa, rischio di utopia, respiro lungo e promessa. Avete sentito? nella voce, lo sentirete anche dal vivo proprio presso la polveriera, esatto. E speriamo anche i nostri microfoni, anzi sicuramente anche i nostri microfoni, perché il Wombat sarà, certo, presente, sarà presente con la diretta. Ma questo è poco ma sicuro. Questo è poco, sì, ma sicuro, quindi dai, la voce dello, la voce di Dello Voce passerà per forza dai nostri microfoni. Andiamo alla domenica. Andiamo alla domenica e andiamo in ordine. Si inizia, dai, alle ore 16. Odi. 15 declinazioni di un sentimento. Pubblicato da FQ l'anno scorso. Ci sarà il curatore Gabriele Merlini, l'editore Francesco Quadraro e alcuni fra gli autori. Questa qui è una raccolta di contributi. Molti di questi partecipano in generale, cioè verranno al festival, alcuni parteciperanno a questo tavolo. Su quella è una presentazione, è un tavolo presentazione su questo libro, che però è fatto da talmente tante mani che non ci sarà solo un autore, ma diversi di loro. Diversi, bene. Alle 17 un tavolo, dialoghi, il Poetry Slam con Lello Voce, che per sentite l'appunto, per l'appunto in sottofondo, Nicolas Camial, Cunial, a partire dalla presentazione di Santa Bronx, Squilibri, sì, editore del 2017, con Alberto Dubito, sì, con il musicista Tantulli e Cerutto. Questo è la Poetry Slam, è quello, che sentite in sottofondo. È quello, esattamente quello che sentite. È una domenica, tutta la domenica è dedicata tendenzialmente alla poesia, come potete vedere dal programma. Infatti anche il tavolo successivo alle 18.30 sarà al titolo di La poesia di strada, e parteciperanno Ivan, che Ivan Tresoldi, la sera prima fa lo spettacolo, il giorno dopo partecipa al tavolo. Movimento dell'emancipazione della poesia, che è stato più volte qui ai nostri microfoni, che potete vedere sui muri delle vostre città sparse per il mondo. Per il mondo si può dire a questo, sì, punto, sì, per il mondo, per il mondo. Alfonso Pierro, Francesco Terzago, Mattias PDS e altri, penso diverse altre persone. Bene, la sera dopo la cena, che sarà come sempre alle ore 20, sì, alle 21 ci sarà la finale regionale del, attenzione, campionato di Poetry Slam LIPS, Lega Italiana Poetry Slam, a cura di Fumofonico. Quindi questa è eventone, è la chiusura, la chiusura del festival. Bene, abbiamo spulciato tutto questo meraviglioso programma, abbiamo lasciato fuori le radioconversazioni. Cosa sono le radioconversazioni? Le radioconversazioni saranno delle interviste radiofoniche, per l'appunto sulla vostra radio preferita, Radio Wombat, in cui ci saranno alcune dei libri che appunto hanno avuto meno spazio o comunque hanno scelto di partecipare, hanno voluto partecipare, saranno appunto intervistate direttamente a noi in radio. Iniziamo da giovedì, l'abbiamo già citato, alle, sì, 20.30, Confederalismo democratico e situazione siriana a partire da La prossima rivoluzione, dalle assemblee popolari alla democrazia diretta di BFS. Che tra l'altro questo libro secondo me è già stato... abbiamo già avuto dei contenuti, abbiamo un podcast con dei contenuti appresi da questo libro, sappiatelo, andate a cercare. Andrò anch'io perché forse ho detto anche una cazzata, non lo so. La Vai. Di Murray Bookchin, sì, con l'editore Bertolucci e l'Ateneo Libertario di Firenze. Ottimo. Venerdì. Attenzione, venerdì ce, sì, ne saranno due, bene, ben due? Io penso una, sai. No, una, è vero. Sul fronte del sisma, un'inchiesta militante pubblicata da Deriva Prodi proprio ora nel 2018 col gruppo di ricerca Medio di Treviri. È molto interessante, ci piacerebbe approfondirlo adesso, ma forse abbiamo un po' poco tempo e anche un po' poca esperienza per farlo. Ma questo gruppo di ricerca si è recato sui luoghi del sisma, dei vari sismi in realtà negli ultimi anni, ma soprattutto in quello delle Marche. Sì. E cercando di, appunto, facendo un'inchiesta a metà tra il sociologico, il geografico e altre discipline sociali, cercando di individuare i punti di rottura e di interesse pubblico all'interno di uno spazio devastato da un evento naturale, ma che deve essere ricostruito, e questa ricostruzione secondo quali linee guida è stata portata avanti, secondo quali interessi. È complesso, ma avremo sicuramente il radio degli esperti che sapranno aiutarci. Il tavolo di sabato invece, la radio presentazione davvero, di sabato, sì, che sì, questa volta sono uno, secondo me. Il tuo programma è Farlocco. Il mio è più aggiornato, evidentemente, perché dice la verità. Te quale c'hai? Allora, io alle 20.30 presentazione dell'edizione italiana della guida all'autodifesa digitale. Sì. Tanning Party 2017 a cura niente poco di meno che di Radio Wombat. Sì. Sì, dei nostri espertoni. Ce n'è un'altra prima. Partendo dal libro, cioè in realtà verrà proprio presentato il libro, Lo Stato Irresponsabile, il caso Cucchi, pubblicato da Aracne nel 2017. Questo libro è stato curato da un gruppo di ricerca su potere, istituzioni e forme di controllo sociale presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Con noi sarà Raffaele Spadano, membro di questo gruppo di ricerca. E sono bravi questi qui dell'Università di Urbino, sai? Bene. L'abbiamo mandati anche su Radio Wombat l'anno scorso, quando una delegazione, ti ricordi, è andata a Urbino, sì, e ci ha riportato un sacco di contenuti da una o due giorni là. Parleremo appunto parleremo con l'autore, con uno dei curatori del volume della questione dello Stato nell'età moderna, cioè di come la concezione dello Stato poi sia cambiata e sia complessa, e quanto poi un caso specifico come quello di Cucchi, che è morto nelle mani dello Stato, possa destare stupore, ma fino a un certo punto. Esatto. Si va con l'ultima radiopresentazione, sì, quella di domenica alle, sì, 20.30, giornata quella di domenica dedicata alla poesia, e quindi si presenta Il Labirinto di, sì, Al-Nassar, ensemble del 2018, a cura di Affluenti, Nuova Poesia Fiorentina. Sì, quindi sarà sempre poesia, evviva. Evviva. Citiamo anche chi parteciperà, perché vi saranno diverse librerie, distro e banchi espositivi durante la 4 giorni del festival. E avremo l'Ateneo Libertario di Firenze, la Biblioteca del Next Emerson, la Biblioteca del CPA Majakowski, sì, InfoShop di Corsica 81, il Distro Leone dell'Occupazione Via del Leone, Radio Wombat naturalmente, Lo-Fi Comics, Alegre, a cura di Inchiostri Ribelli e Tattoo and Riot Art, Laboratorio per un'altra città, Ruggine, non una di meno Firenze, il Borda Fest, le produzioni sotterranee, Fuori Binario, Three Faces, Edera, Comorebi, tantissimi. Sì, Post-it, FQ, Ensemble, Eco del Nulla, Merio dei Trepidi, Inchiostri Belli e Ribellarti, quindi il collettivo che lo organizza. Insomma, un sacco di banchi, sia di libri, sia di stampe, sia di artisti, insomma. Tutto meraviglioso. Tutto e poi, meraviglioso. Tutto su Radio Wombat. Tutto sul seguito di Radio Wombat, quindi wombat.blogs.org o la M1359. Sì. Ci tengono a far sapere gli organizzatori che tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Ci sarà un bar autogestito a prezzi popolari che sarà aperto durante i 4 giorni. La polveriera e dunque il festival è contro ogni forma di discriminazione, razzismo, sessismo e fascismo. Qui non sono ammessi. Con questo, signori, chiudiamo la grande parentesi sul festival. Ci sentiamo per l'appunto al festival. E tra l'altro poi probabilmente mandiamo tutto in diretta, ma registreremo tutto. Taglieremo anche ciò che più ci aggrada e poi rimetteremo podcast e rimanderemo nelle prossime trasmissioni. Assolutamente, ci sarà tantissimo materiale da poter consultare, esatto, da poter ascoltare. E da diffondere anche magari. E anche da diffondere, sì, perché è importante. Perché no? Quindi, canzone, stacchiamo un attimo e poi andiamo sulle bici. In sella. Sì, eccoci. Di Gary Newman al Friends Electric. Dentro in Hatch Allegra. We'll be right back.

Torna in punta di pedale su Fuoco alle Polveri, è un programma che si è staccato, è diventato grande, ma non scorda le sue origini, e quindi eccoci qua. Di cosa parliamo? Oggi parliamo del Giro d'Italia, o meglio di quello che succede intorno al Giro d'Italia, perché il Giro d'Italia abbiamo deciso di non seguirlo. Lo boicottiamo in seguito a quello che è successo, quindi per la prima volta la grande, la Corsa Rosa, è partita da fuori dell'Europa e pensate un po', è andata proprio a partire da Israele. Per l'appunto. Israele, che vediamo gli ultimissimi aggiornamenti che risalgono a un'ora circa fa, 43 morti e circa 1700 feriti per la giornata di protesta palestinese con centinaia di migliaia di palestinesi lungo il confine tra la striscia di Gaza e i territori israeliani, che vengono letteralmente presi di mira dai cecchini, massacrati, mitragliati, uccisi, sterminati, quello che volete. Questo è quello che fa Israele, tra virgolette, città di altri, unico stato democratico in Medio Oriente, contro le persone che protestano senza armi. Esatto, domani è il 15 di maggio, il giorno della Nakba, c'è cioè l'inaugurazione della nuova ambasciata a Gerusalemme degli Stati Uniti. Questo, ricordiamolo, viola il diritto internazionale. E ricordiamo anche che il Giro d'Italia è passato da quelle strade giusto pochi giorni fa, e con l'unico obiettivo di offuscare tutto quello che invece sta accadendo adesso e è successo nelle ultime 6 settimane, per non parlare degli ultimi 70 anni. Ma ne abbiamo parlato con i compagni di BDS Italia, via un podcast su wombat.noblogs, sulla pagina, sulla finestra di Punta di Pedali, e racconta proprio del cambia giro della protesta che sta organizzando BDS lungo le strade del Giro d'Italia. Ha fatto tutto un lavorone anche prima, però adesso sono in campo. Proprio il primo giorno dell'arrivo del giro sul territorio italiano vi sono stati degli scontri a Catania in via Etnea, perché un gruppo abbastanza consistente di sostenitori della causa palestinese, compagni e compagne, si sono recate alla partenza cercando di bloccare la tappa. Non ci sono riusciti, hanno rallentato la partenza di circa un'oretta, hanno preso anche diverse manganellate, e questo nel silenzio di tutti i media, nessuno ne ha parlato. Giusto, guarda, la Sicilia, il Giro d'Italia, Catania protesta contro la partenza di Israele, tensioni con la polizia. Naturalmente tutti i siti di controinformazione e le radio compagne ne hanno parlato, ma i grandi media no, così come anche giusto sentendo ieri un pezzettino della tappa, i giornalisti citavano la sensibilità del giro che passa dai territori terremotati dell'Abruzzo per ridare visibilità a quei posti così belli abbandonati. Peccato che tutto questo suona molto ipocrita dopo quello che è successo e dopo quello che sta succedendo. Ma non parliamo di giro e andiamo avanti, parliamo invece di un tema che a noi è molto caro, e sono i Riders 1. Ne abbiamo già parlato, abbiamo parlato dell'assemblea che si è svolta il 15 di aprile presso la BAU Bologna. Vi sono delle novità, perché Deliveroo ha annunciato una serie di misure volte all'estendere le coperture assicurative verso i rider, tra cui un rimborso basato sulle entrate medie giornaliere in caso di infortunio e la garanzia di spese mediche fino a 7.500 euro. Una manovra strumentale, oltre che vaga nei contenuti rispetto alle possibilità di accesso alle polizze, con cui l'azienda tenta di ripulirsi la faccia, accreditandosi come società sensibile di fronte all'opinione pubblica e cercando di offrire un contentino ai lavoratori dopo una fase in cui la loro lotta si è diffusa in molte città europee dove il servizio è presente con una certa forza. Questo è Radio Blackout che lo dice. Io sono andato a cercare proprio quello che dicono i Riders, che sì, accettano, nel senso accolgono questa come una notizia positiva, però non sono contenti perché gli viene mostrata come un regalo di fatto, perché gli è stato mandato a tutti i riders di Deliveroo un videomessaggio del capo Will Shu, in cui Deliveroo comunica attraverso una mail molto generica di aver stipulato una nuova polizza assicurativa per i riders. Questo è quello che loro hanno saputo ufficialmente dall'azienda. Invece la stampa, dalla stampa loro sono arrivati gli è arrivata questa notizia dalla stampa invece, che specifica nel che cosa gli spetterà. Quindi una copertura pari al 75% della retribuzione media giornaliera, fino a un massimo di 30 giorni di inattività, un massimo di 7.500 euro per le spese mediche e 50 euro per ogni giorno di degenza in ospedale fino a 60 giorni. Quindi appunto loro sono contenti per questo, però dicono: ma perché alla stampa viene detto una cosa e a noi un'altra? Forse qui c'è qualcosa che non torna. E quindi questo per porre l'accento sul fatto che queste aziende tendenzialmente devono ripulirsi dopo questi mesi in cui le proteste sono state forti. Inoltre, proprio per parlare di sicurezza, va bene, e loro sostengono che non si può parlare di sicurezza se non si parla di prevenzione e di riduzione dei rischi, e quindi rivendicano la fornitura di attrezzature idonee e non solo. E sottolineano naturalmente che se non ci fosse stata questa auto-organizzazione, queste proteste degli ultimi mesi, è praticamente sicuro che niente di tutto questo sarebbe successo. Quindi il lupo cambia il pelo, ma non il vizio, ecco, esattamente. È un po' la storia anche di tutto il movimento operaio, che tutte le conquiste vengono vendute poi dalle aziende, dal capitalismo in generale, come un regalo, come un momento di, assolutamente, di bontà. Ecco, però infatti loro concludono dicendo: a Deliveroo fa sicuramente comodo presentare questa nuova polizza assicurativa come frutto della sua immensa generosità, per camuffare il suo estremo bisogno di avere un'immagine linda da poter presentare agli investitori e all'opinione pubblica e a conquistare mano a mano fette di mercato sempre più grandi. E noi a questo proposito vi consigliamo, anzi vi suggeriamo caldamente, di andarvi a ascoltare, di anzi prepararvi ad ascoltare la puntata di domani di Un Punta di Pedali. Eccola. Che vedrà ospiti proprio due riders bolognesi, messi accanto a due riders fiorentini, e con la collaborazione dei Clash City Worker. La puntata andrà in onda, bella, ecco. Sì, una puntatona di quasi due ore, dove viene spiegato veramente nel dettaglio tutto il mondo dei riders e del lavoro attraverso queste piattaforme digitali. Sentirete cose veramente veramente particolari, perché io in tutte le se ne è parlato un po' di questa cosa negli ultimi mesi, anche sulla grande stampa, però sempre molto approssimativa. Invece qui avrete l'occasione di scoprirne di più. A che ora, non ho capito? Alle 18, andrà in onda alle 18, circa quasi, fino a quasi le 8 circa. Allora migliore radiofonicamente, martedì. Se ti sei scelto l'ora della tua trasmissione, è rimasta libera. Diciamolo. bene. Bene, voltiamo pagina e andiamo purtroppo, anzi per fortuna e purtroppo, a un evento anche se a noi molto caro, per fortuna, perché non vediamo l'ora che la CIE Mona sbarchi sulle strade fiorentine, e purtroppo dobbiamo dirlo perché è in contemporanea a un altro grande evento del quale abbiamo parlato fino adesso. Vedremo cosa potremo fare. Intanto la CIE Mona sarà... Cos'è questa CIE Mona? Cos'è la CIE Mona? La grande critical mass interplanetaria. Perfetto. Quest'anno a Firenze. In tre giorni, venerdì, sabato e domenica, vi leggerò il programma, vi darò anche una piccola indicazione su come, diciamo, dove poter, se siete intenzionati a recarvi qua, a venire a Firenze e a partecipare alla CIE Mona, potete trovare ospitalità al Ciclo Camp, che è un campeggio organizzato al CPA, al Centro Popolare Autogestito, in via di Villa Magna 27, laddove vi è anche la famosa ciclofficina Brugola Rossa. Potete andarci, magari scrivete prima, perché potrebbe, insomma, si aspettano veramente tante persone. Notizia: ci sono anche le docce. Un paio di giorni fa, sì, hanno montato due docce fredde, teniamo a dircelo, fredde, però ci sono, esatto. Dai, via col programma. Venerdì 18 maggio inizia subito con la critica al MAS di Firenze, che questa volta eccezionalmente è spostata al venerdì, appunto, ore 18:30 in Piazza Santissima Annunziata. Poi la massa partirà e raggiungerà il centro sociale autogestito Next Emerson, dove sono previste diverse attività. Una cena popolare, vi sarà una serigrafia estemporanea di Hopn, anche lui è stato ai nostri microfoni, della serie Fatte una maglietta, e quindi ti devi portare una maglietta bianca o comunque di un colore chiaro, non maglie nere, senza stampe già fatte o cuciture strano e magari forse pulita. Vi sarà poi Nerhon Empire DJ Set, la proiezione di On the Green Road a cura di Next Emerson, e poi giochi a pedali, non ve lo svelo, ma sono bellissimi, ho partecipato una volta. Sabato 19, dalle ore 10 alle ore 13, vi sarà il cazzeggio, la serigrafia, il divertimento aspettando la scimmona vera e propria presso la ciclofficina della Brugola Rossa. 11:30 ci sarà invece l'assemblea delle ciclofficine popolari presso il CPA. 14:30. Quindi queste cose qui, se volete anche andare al Festival del Territorio Sociale, vi sono consentite. Esatto, diciamo. Perché qui siamo la mattina. La mattina. Andate agili. 14:30 ancora, scusate, alle 11 c'è l'assemblea, sia alle 14:30 il concentramento al Parco delle Cascine davanti alla Facoltà di Agraria. Quindi qui potete ancora andare. Alle ore 16 parte la scimmona alla conquista della città. Questo è un po' già in contratto, il sabato. Però alle 16, sì. Facciamo così. Su Radio Womba sta a casa, non uscire. State a casa, perché ci sarà la diretta sia della scimmona che del festival. Sì, sì. Oppure potete anche andare al festival, dove ci sarà anche la diretta della scimmona. Oppure fate il contrario, fate un po' il cazzo. Esatto. Quindi dopo la cimmona si torna a far festa al CPA, dove ci sarà la cena popolare e a seguito il concerto dei bellissimi Fiati Sprecati e dell'O'Brien Bombers. In parallelo la ciclofficina sarà aperta. Attenzione, non finisce qua, perché domenica 20 maggio, questa volta andate tranquilli, non ci sono problemi, non contrasta col programma del festival. Alle ore 10 ritrovo in Piazza Foggi, alle ore 11 partenza per niente po' di meno che Mondeggi Bene Comune, dove alle 13 vi sarà una merenda contadina e poi ancora musica e poi festa, verso le 15 voi riprenderete la discesa di Mondeggi e arriverete nel circa una mezz'oretta, 40 minuti, mezz'ora per chi va forte, 40 minuti per chi invece vuole andare tranquillo, siete in polveriera e vi potete gustare una fantastica domenica, veramente a 360 gradi. Lessi andando... a quel punto. Lessi, cioè, ma contenti e soddisfatti, avrete fatto di tutto, da pedalato in spazi liberati alla letteratura, che alla poesia, si può dire, della domenica pomeriggio festival. Signori, è una settimana densissima, caldissima. Non vi distraete. No. Con questo in punta di pedali vi Ciao. Saluta, ci sentiamo domani, ripetiamo su wombat.blogs alle ore 18. Dai, ciao. Yes. Ciao bello. Ciao, siamo tutti qui poi. Sì, infatti. Ora ciao, poi tra un po' torno. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. C'è un movimento punk nella foresta. Gli alberi con i capelli verdi sulla testa e le galline con le creste vengono malviste dalla guardia di finanza, che non si accorge della gazza ladra e del crimine che avanza. E cantano in mutande i cori di cicale che lasciano i vestiti sulle reti del mare. le grandi distorsioni, le sperimentazioni, grilli sintetizzatori. La musica elettronica nasce dai calabroni. C'è un movimento punk nella foresta, di alberi con i capelli sempre verdi sulla testa. C'è un movimento punk ai limiti del bosco, con l'upupa che canta allegra le sue origini di zebra, e se ne frega di chi la vede come un male, di chi la vede come un ponte tra il mondo dei vivi e il mondo delle ombre. Nel movimento punk che gira tra le piante, dicono che hai preso il volo un pomeriggio nel deserto, col sole che batteva le sue mani gialle sulla schiena dei leoni. Ti sei staccata da un disegno dentro le piramidi vicino ai faraoni. Nel movimento punk della foresta, gli alberi alla testa tra le nuvole e i piedi sottoterra. Nel movimento punk ai limiti del bosco, c'è il lupupa che canta allegra le sue origini di zebra, e se ne frega di chi la vede come un male, di chi la vede come un ponte tra il mondo dei vivi e il mondo delle ombre. Te no, sono tornato. Ecco, ora sì. È colpa tua, Ciccio. Colpa mia, sì, è vero, colpa mia. Sentite, signori, bene. Noi mi sa che, signore, ci salutiamo. Ci salutiamo. Siamo scherzati, cazzo. Ci salutiamo, ci potete sentire anche domani su queste, su sì, queste, poi tutto fine settimana, tutto da fine giovedì settimana. Non disperate, non disperate. Non disperate. Tra l'altro ci saranno anche non soltanto noi brutti, ma anche tutti i meravigliosi altri speaker di Wombat. Saranno nel fine settimana, saranno, trasmetteranno con noi. Quindi niente, dai. È bello. È bello, è bello. Sì, le vostre, dai, aspettiamo, trasmissioni. Aspettiamo. Ah, e tra l'altro al festival ci sarà anche il banchino di Radio Wombat, che oltre ad avere facce belle, ci sono anche letteratura, i meravigliosi gadget. Gadgets, assolutamente. Vero, diretta, lo ricordiamo ancora, da, per chi si fosse messo in ascolto adesso, diretta sia del festival che della Ciemona nelle giornate di giovedì, solamente il festival, solo venerdì e sabato Wombat, entrambe le cose, e domenica il festival di nuovo di letteratura sociale. Con questo, signore e signori, noi, buona, probabilmente abbiamo concluso. Tra pochissimo rassegna eventi della settimana che non vi stiamo nemmeno anticipare. Esatto. Potete immaginare quali saranno. E alle 21 Coccoli al Silicio. 21 Coccoli al Silicio, no, signori, no, assolutamente sì. Buono, dai. Buona. Ciao belli. Wombat, Wombat. Wombat. Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Wombat.